Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Lui sembra darti in tregua e poi non te la dà. Se resti fermo ti può ingannare. Il tempo è fatto d'acqua e di corrodera. Chi sei? Lo sai? Lascia il segno e muoviti. Perché? Lo sai? La luce in me non dorme mai. Ruggine, roba da vecchi, no, cari amici, è roba anche da giovani. Provare, anzi sentire, direi, per credere. Allora, mettiamo il caso che abbiate ripreso a fare un po' di attività fisica. Era ora. Avete circa 40-45 anni, vi siete iscritti in palestra, avete iniziato a correre, ho ripreso a giocare a tennis. Se siete ragazzi, sicuramente avrete ripreso il calcetto del lunedì. Comunque, siete soddisfatti e io sono fiera di voi. Gli amici vi trovano in forma, vi sentite bene, vi vedete anche bene, più belli, diciamocelo. Ma improvvisamente dovete fare i conti con un intruso fastidioso e molesto. Vieni a giocare a squash con me domani, ho prenotato il campo e Dana non può venire. Va bene, puoi servire. Sai che ti dico? Prima tu. Evviva, ho vinto. Insomma, ne valeva la pena. Dici che valeva la pena di ridurci così? Noi stiamo andando al fast food, volete qualcosa? Del ghiaccio. Eccolo lì, quel dolore che compare nei momenti meno opportuni. Dite la verità, lo conoscete anche voi? Ma sicuramente lo conosce il dottor Gianluca Melegatti, medico sportivo primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, che è qui in studio con me, che se la ride. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È vero, quel dolore che arriva... Il dolore arriva. E uno dice: sono vecchio. No, sei giovane. No, anche ai giovani arriva. È chiaro che arriva più frequentemente a persone, come dicevi tu prima, sopra i 40. Sì, nella seconda adolescenza, diversamente giovani. Esatto, magari persone che sono stati un po'. Pigre per una serie di motivi, hanno rallentato, hanno diminuito, addirittura interrotto molto la propria attività motoria e sportiva e di colpo decidono di riprenderla con grande entusiasmo, con grande voglia, però poi ci sono problemi muscolari. Sì, perché siamo tutti ragazzi. Tutti ragazzi, però poi la realtà è un'altra. Ecco, che cosa succede? Perché le articolazioni, la puntata di oggi l'abbiamo chiamata ruggine, l'hashtag è antiruggine, perché daremo dei consigli per prevenirle, anche per spazzolarla via. 800 24 00 24, se volete intervenire potete sempre scrivermi alla nostra mail oppure al 349 238 6666. Queste le coordinate. Ma dottor Melegatti, questa ruggine che noi avvertiamo come tale, come nasce? Ma la ruggine è un termine decisamente appropriato, perché rende perfettamente l'idea di un ingranaggio che si muove male, si muove poco e male, e questo movimento crea attriti e crea quindi infiammazione e dolore. Questa ruggine non è altro che la desuetudine delle nostre articolazioni, dei nostri muscoli, dei nostri legamenti a compiere determinati movimenti, perché sono rimasti bloccati per mesi o per anni in posture obbligate, in macchina, al lavoro, dimenticate le attività sportive della gioventù, e quindi hanno creato questa sorta di tensione, questa sorta di scarsa flessibilità di del nostro apparato locomotore, che si traduce poi in un eccesso di carico e quindi una cattiva distribuzione dei carichi a livello del nostro organismo, sia a livello delle grandi articolazioni, sia a livello della colonna vertebrale, dalla cervicale fino alla lombare. Dottor Melegatti, qualche cosa quindi si modifica proprio all'interno della nostra articolazione, sì, che non è più oliata, possiamo dire così, no? Esattamente. Lei l'ha paragonata ad un ingranaggio. Sì, è esattamente questo. Le nostre articolazioni sono paragonabili a degli ingranaggi biologici, sì, di una complessità straordinaria, perché sono delle macchine perfette quando sono messe a punto. Certo. È chiaro che il sedentarismo, il sovrappeso, l'età e altre cause favoriscono questa mancanza di una fine regolazione di queste nostre articolazioni. E quindi tutti questi fattori possono cambiare la struttura e cambiare anche la funzione delle nostre articolazioni. Le nostre articolazioni sono meno lubrificate, sono più usurate, sì, e questo proprio per un fatto in genere legato all'età e all'aumento di peso. Si riduce questo liquido sinoviale? Si riduce il liquido sinoviale che oltre che è l'olio motore delle nostre articolazioni, e si riduce non solo in quantità ma anche in qualità. Non è più capace di lubrificare bene le superfici articolari, che sono composte dalla cartilagine, sì, questa straordinaria struttura biologica che però è molto facile usurarla. E quindi senza una buona lubrificazione quello che va di mezzo è proprio la capacità della cartilagine di assorbire i carichi, di distribuire questi carichi, e quindi le nostre articolazioni vanno in sofferenza. Comunque non siamo da buttare, questo è il messaggio, non ci preoccupiamo, possiamo recuperare con l'attività giusta e spegnere addirittura il dolore. Certo. Oggi, come anticipato, vogliamo dare consigli antiruggine. Dottor Melegatti, partiamo dal collo e scendiamo giù di articolazione in articolazione, per ogni tappa una valutazione. Cerchiamo di capire se è arrugginita, insomma, e un consiglio. Intanto gli ascoltatori possono intervenire all'800240024 per chiamare e prenotare delle fermate così di intermedie. Certo. Allora iniziamo dal collo. Bene, ci sono dei semplici movimenti che noi possiamo utilizzare per testare il nostro livello di arrugginimento, sì, se mi passi questo termine. Certo. Allora, per esempio, possiamo fare dei piccoli movimenti. L'idea è quella di disegnare con la punta del naso dei cerchi sempre più ampi. Questo, sì, ci permette di fare dei movimenti rotatori, ma non solo rotatori, quindi movimenti di inclinazione del capo e anche di leggera rotazione. E ci rendiamo conto di quanto ampio è il movimento. Questo movimento fatto regolarmente, in modo costante, ci permette di capire, e soprattutto lentamente, per evitare stress a livello di strutture articolari, a livello cervicale, che possono essere in qualche modo un po' infiammate. Questo movimento fatto regolarmente non solo ci permette di non perdere movimento a livello del collo, ma ci permette anche di capire qual è la nostra situazione. Certo. E quindi di porre rimedio, come vedremo. Allora, cerchi con il naso, con la punta del naso, da piccoli a grandi, in senso orario e antiorario. In senso antiorario, certamente. Spalle. Le spalle, allora immaginiamo di incrociare le dita dietro, di essere intanto in piedi, appoggiati alla parete. Sì. Quindi con la schiena appoggiata alla parete, mettiamo le mani dietro la nuca, incrociamo le dita dietro la nuca e cerchiamo di allargare le nostre braccia fino a fare in modo che i gomiti riescano a toccare la parete. Se i gomiti riescono a toccare la parete, abbiamo una discreta flessibilità della muscolatura e del complesso articolare della spalla. Se ci accorgiamo che nel tempo questa capacità di toccare coi gomiti la parete comincia a diminuire, bene, allora è il momento di occuparci delle nostre spalle. Andiamo giù, facciamo le braccia o scendiamo alle anche? Le braccia, mi viene in mente un movimento che noi consigliamo molto, soprattutto quando abbiamo pazienti, soggetti che hanno problemi di tendinite della cuffia, la classica, sì, periartrite di non una volta. Vero. Allora, se noi immaginiamo di essere di fronte, posizionarci di fronte al muro, avviciniamoci più possibile al muro, appoggiamo il palmo della mano sopra la nostra testa al muro e saliamo, facciamo scivolare la mano verso l'alto fino a che riusciamo a far toccare la parete con la nostra ascella. Sì. Se riusciamo, vuol dire che abbiamo una mobilità del braccio e ancora della spalla accettabile. Se questo non succede, bene, allora pensiamo che qualcosa deve essere fatto. Lei ha tempo di fermarsi 5 minuti dopo la diretta? Volentieri. Perché io vorrei che lei, Laura Vanossi già se la ride, perché io vorrei fare un video. Così filmiamo e gli ascoltatori diranno: è da buttare la Nicoletta perché sarò arrugginita, ma forse ce la faremo. Allora, e così volentieri. Anche gli ascoltatori vanno sulla nostra pagina, sul nostro sito, cliccano e si autovalutano. Quindi le braccia le abbiamo messe a posto, bene. Abbiamo anche gambe. Pensiamole anche, una cosa semplice che mi viene in mente, cerchiamo di, tutti noi accavalliamo le gambe. Eccolo, anch'io. Allora, proviamo ad accavallare le gambe, sì? Cominciamo con la destra, però accavalliamo la gamba in modo tale per cui il malleolo esterno, che è quindi la nostra caviglia, deve stare esattamente sopra il ginocchio. Mm-hmm. Quindi non accavalliamo le gambe tenendole chiuse, ma accavalliamo, sì, le gambe tenendole aperte e lasciamo andare in tutta rilassatezza il ginocchio verso il basso e ci rendiamo conto di quanto si abbassa il ginocchio. Proviamo dall'altra parte, cerchiamo di capire se c'è differenza tra destro e sinistro. Se non c'è differenza, va bene. Se c'è differenza, cominciamo a pensare che quell'articolazione che non permette al ginocchio di andare giù troppo ha bisogno di una oliatina, diciamo. Ma fantastico, ma quante cose! Allora, abbiamo fatto tutto. Ma io magari direi l'ultimissima cosa. Sì. Hai presente la fotografia che fanno i calciatori di solito, che sono giù in accovacciamento? Sì. Facciamo la stessa manovra, andiamo giù molto lentamente in accovacciamento e cerchiamo di capire se questo ci è permesso dal nostro ginocchio o dalla nostra caviglia. Quando abbiamo una rigidità di ginocchio o di caviglia, questa posizione di accovacciamento ci risulta terribilmente scomoda. Se questo succede, anche qui è arrivato il momento, non possiamo fare i calciatori, occuparci delle nostre ginocchia. Allora, abbiamo in linea con noi Alessandro da Prato, buongiorno, benvenuto. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, volevo chiedere, io ho 46 anni, sono alto 1,80 m, peso 79 kg. La mia dottoressa mi ha, diciamo, consigliato di fare attività aerobica per contrastare un po' di pressione alta di cui soffro. Sì. Quindi ho iniziato a correre abbastanza bene, diciamo, ho iniziato dopo un lungo periodo in attività e diciamo l'unica parte del corpo che mi fa male correndo un giorno sì e due no sono le ginocchia, abbastanza evidenti. Adesso ho provato comprando le solette in gel come ultimo tentativo. Sentivo prima parlare delle articolazioni. Lei insomma ha fatto, Alessandro, guardi che poi deve andare sulla nostra pagina e provare con me a fare questi esercizi, così ci autovalutiamo, vediamo quanto siamo arrugginiti. Magari abbiamo un'articolazione arrugginita, l'altra va bene. Ma dottor Melegatti, che cosa possiamo suggerire ad Alessandro? Beh, se questo è un problema che impedisce la corsa, che è una cosa che io suggerisco ad Alessandro perché fa molto bene a farlo, perché controlla il peso, perché controlla la pressione arteriosa. Allora direi di rivalutare bene alcuni aspetti. Prima di tutto l'attrezzatura, le scarpe devono essere delle scarpe da running, devono essere delle scarpe ammortizzate, l'appoggio plantare deve essere corretto, può essere che un appoggio plantare possa interferire sul lavoro delle ginocchia, le ginocchia stesse devono essere a posto, voglio dire, non ci devono essere delle alterazioni strutturali, non devono avere problemi per esempio artrosici oppure problemi meniscali, e allora vale la pena di fare una valutazione alle proprie ginocchia e poi soprattutto essere molto più progressivi nell'approccio alla corsa. Un giorno sì e due no può essere anche troppo quando uno riprende a fare questa attività dopo anni di inattività, quindi il mio consiglio è alternare camminata veloce a corsa per un paio di mesi anche e poi progressivamente focalizzarsi solamente sulla corsa, però con grande progressione. Perché il movimento è un antiruggine. È un antiruggine fondamentale. Tra poco capiremo anche come e quanto muoverci, ma possiamo aiutare anche quelle cellule che abbiamo, che sono proprio deputate a produrre il liquido sinoviale, che lubrifica le nostre articolazioni, a produrre, a mantenerlo nella giusta quantità e anche di buona qualità, come Perfetto. Suggeriva il dottor Melegatti. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Domenico Tiso, medico nutrizionista a Bologna a Rimini. Buongiorno, dottore. Buongiorno a voi. Dottore, buongiorno. L'antiruggine noi ce l'abbiamo in dotazione, ma a volte, come è di questo che stiamo parlando, non basta. Certamente. Non basta soprattutto in una società che ci spinge ad andare troppo di fretta e a mangiare in maniera squilibrata. Sì. E questo procura a noi il concetto dello stress ossidativo, ormai conosciuto e riconosciuto anche a livello scientifico, sì. Che in sostanza è dovuto proprio a uno squilibrio tra una produzione eccessiva di sostanze che ossidano, quindi che arrugginiscono le cellule, sì. e di sostanze che invece dovrebbero mantenere la salute delle cellule, quindi i nostri antiruggini, come diceva lei prima, no? Gli antiossidanti. Ora la natura ci ha dato tre antiossidanti che abbiamo noi, che si chiamano con nomi un po' più o meno conosciuti, sono la superossido dismutasi, il glutatione e la catalasi. Nomi difficili da ricordare, ma sappiamo almeno che ci sono e che sono tre. Ci sono, ecco. Sono i nostri antiruggine. Sì. Solo che questi tre antiruggine sarebbero capaci di contrastare la ruggine se questa ruggine non fosse in eccesso. Sì. Mentre se è in eccesso, perché mangiamo troppi cibi raffinati, mangiamo troppo in fretta, siamo sempre sotto stress, allora abbiamo bisogno di aiutarli. Come? E con il cibo. Il cibo è un grande aiuto per noi anche da questo punto di vista. Quindi mangiare, in una parola sola, cibi più freschi, frutta e verdura per esempio, di stagione, perché sono più ricche di antiossidanti, sì. Mentre la verdura e la frutta fuori stagione, la classica fragola a Natale o la ciliegia a Natale, costa e non rende, diciamo così. Perfetto, Nicoletta, perfetto. Quindi frutta e verdura, noi sottolineiamo sempre l'importanza di inserire nella dieta quotidiana la frutta e la verdura, variare la frutta e la verdura e utilizzare quella di stagione, ricche di antiossidanti che quindi aiutano a togliere via quella ruggine. Ma oltre a questo c'è l'idratazione, dottore. L'idratazione è l'altra base fondamentale. Sì. Anche perché la sinovia, la membrana sinoviale, prende il liquido proprio dal sangue, cioè filtra il sangue, sì. Filtra tutti i nutrienti dal sangue, e questo liquido che produce, che è il liquido sinoviale, poi lo manda in aiuto alla cartilagine, la quale si nutre proprio attraverso il liquido sinoviale, perché la cartilagine non ha vasi suoi, vasi, sì. Sanguigni. Insomma, la cartilagine si fa bella, da questo nutrimento. Ma quanto e cosa bere, dottore? Allora, bere sicuramente acqua. L'acqua, perché oltretutto ha un pH simile a quello del sangue, quindi a quello del liquido sinoviale. Bere tisane, tè, sì. Verde, perché è ricco di antiossidanti. Se il tè verde vogliamo o possiamo anche alternarlo con il tè bancia, sì, che non ha teina, possiamo farlo, che Vero. Non ha teina, e sappiamo che la teina, come la caffeina, come le bevande alcoliche o le bevande troppo zuccherate, sì. Abbassano il pH del sangue e quindi abbassano il pH della sinovia e del liquido sinoviale, quindi un pH che va sotto il 7, sì. è un pH che non va bene per la salute delle cellule, vede. E quindi anche per la salute della cartilagine. Dottore, quanto bere? Diamo delle indicazioni durante la giornata? Possiamo proprio cogliere l'opportunità di magari fissare dei momenti? Certo, è la cosa migliore, Nicoletta, perché si sentono purtroppo tante cose, bere 8 bicchieri, bere 2 litri, però poi noi abbiamo, io dico sempre, un'agenda nostra interna, sì. e quindi se riusciamo a fissare dei momenti già in agenda, e quindi che ne so, la colazione, gli spuntini, il pranzo e la cena, e tenendo di riferimento questi momenti potremmo fare questo. Sì. Intanto appena ci si alza la mattina sarebbe buona abitudine bere un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente, non fredda. Sì. Se nel bicchiere d'acqua aggiungessimo anche del limone spremuto sarebbe eccellente, perché il limone è un alcalinizzante, diversamente da quanto possiamo pensare, essendo il limone acido, sì, perché il limone poi si trasforma in citrato e quindi è un ottimo alcalinizzante. Quindi alcalinizzare già dalla mattina il sangue è una buona cosa, perché durante la notte il sangue si acidifica, perché l'organismo viene in manutenzione. E quindi questo piace anche alla nostra sinovia? E piace anche alla nostra sinovia, perché manteniamo il pH alcalino, cioè lo riportiamo all'alcalinità. Perfetto. Cosa che durante la notte non avviene, anzi si sposta verso l'acidità. Senta, quindi lei mi aggiunge il limone, mi scusi, anche il miele mi sembra è un alimento ricco di sali minerali che sappiamo fanno bene anche alla nostra, sono, alla nostra articolazioni, quindi si certamente può anche alternare acqua e miele? Anche acqua e miele, perché il miele ha una buona quantità di sali minerali, in particolare il magnesio e il potassio, che sono sali minerali che mantengono l'equilibrio poi delle membrane cellulari e fanno in modo che queste membrane possano scambiarsi con l'esterno le tossine o i nutrienti. Perfetto, quindi abbiamo detto anche l'alternativa. Ci siamo svegliati, acqua e limone o acqua e miele. Tra poco andiamo ai mercati, ma mi racconti, dottor Tiso, rapidamente gli altri appuntamenti con l'idratazione, che così noi poi passiamo la linea ai mercati. Dottor Tiso? Allora, la colazione è un altro momento importante. Sì. Sicuramente bere, che ne so, del tè piuttosto che dell'orzo, quindi evitare bevande troppo acide, ma soprattutto mangiare dell'acqua a colazione, sì, vale a dire con la frutta fresca, magari una macedonia di frutta fresca. Perfetto. Fatta all'istante, che è antiossidante. Nello spuntino, quando mangeremo, che ne so, della frutta secca, delle mandorle che sono comode da portarsi dietro e che sono ricche di sali minerali e di fibra, anche lì un altro bicchiere d'acqua, una tisana o un tè o quello che ci piace. E poi concludiamo la giornata con una tisana. Secondo me questa è una buona abitudine, dottor Tiso. La sera sarebbe una buona abitudine, Nicoletta. Ecco, fissiamoci, ecco, appuntamento tisana. Mettiamo anche l'appuntamento tisana, ci guadagnano anche le nostre articolazioni. Dottor Tiso, la ringrazio, devo dare la linea ai mercati. Ci sentiamo certo, prestissimo. Buonissima giornata. Essere e benessere. E su, due, tre. E giù, sono scoppiato. Ma non abbiamo ancora cominciato, questo è solo il riscaldamento. E poi abbiamo corso 5 miglia ieri. Corso? Ma che dici? Abbiamo guidato per 4 miglia e mezzo fino al parco e poi abbiamo camminato mezzo miglio. Su, andiamo. Sì, fammi solo vedere un attimo. No, niente televisione, adesso andiamo a correre. Va bene, ma sono sfinito. Non ce la faccio proprio più a correre su questa geggia. Quanti chilometri ho fatto? Saranno 8, 9? Quasi 5. Che cosa? E va bene, 4. Oh. Anzi, 3,2. Non ce la faccio. Scordatelo. Accidenti, che faticaccia. Se la ride il dottor Melegatti, che è qua in studio con me, ma abbiamo anche Angelo dalla provincia di Benevento e Giorgio da Modena. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. La mia domanda era questa. Si era parlato di cartilagine, di olio che lubrifica i legamenti, i movimenti. Ma quanto il movimento aiuta o preserva la cartilagine e aiuta a produrre, se lo fa, l'olio per gli ingranaggi? Perché io ho 50 anni, ho sempre fatto sport in maniera più o meno continuativa, adesso a 50 anni ho una schiena che è una tavola di legno e non so cosa fare. Cammino, alla sera faccio la mia camminata, ma non migliora la situazione, anzi peggiora. Altro che olio e antiruggine. Giorgio vuole un consiglio pratico. Sì. Che cosa fa? Si è mosso e poi... Allora, qui olio, di olio non si può parlare, perché non si può mettere dell'olio lubrificante all'interno delle vertebre o tra le vertebre. Ci sono delle metodiche che permettono di mettere farmaci a livello delle piccole facette articolari posteriori, ma è un po' più complicato. Allora, sì, quello che succede è che a un certo punto della vita una persona, dopo aver fatto sport anche a livello agonistico per tutta la vita, si trovi con un problema artrosico, con un problema degenerativo della colonna, e questo capita purtroppo molto spesso. Allora è chiaro che bisogna non abbandonare il movimento, ma scegliere il movimento ideale. Il movimento ideale in questa situazione non è mai la corsa, ma è un movimento che permette di muoversi senza gravare sulla, sulla colonna. E quindi nuoto, bicicletta, camminate, niente calcetto, niente corsa, niente attività troppo aggressive in questo momento. E poi magari occuparsi della propria colonna cercando di migliorare dal punto di vista medico o fisioterapico la situazione. Andiamo nella provincia di Benevento, che c'è Angelo, e parliamo poi dei condroprotettori per dare delle informazioni a chi ha un problema già diagnosticato ed evidente. Angelo, benvenuto. Buongiorno a voi. Volevo chiedere al dottore, io sono, ho 50 anni e fino a un anno fa in effetti le pratiche sportive che io attuavo erano la classica partita a calcetto o camminate, e notavo in effetti il giorno dopo della partita avevo sempre tutte le articolazioni bloccate. Poi così, autonomamente, senza nessun consulto né medico né di altro tipo, ho iniziato da un anno a questa parte a fare spinning con una regolarità molto costante, 3 giorni a settimana, e ho notato dei benefici enormi. L'unico problema che ancora mi rimane, questo volevo chiedere al dottore un consulto sul tipo di attività, se ho fatto una scelta giusta o meno, siccome soffro di cervicale, ho notato che nell'ultimo anno, da quando faccio spinning, i dolori alle braccia che io in precedenza avevo tutte le notti non ce li ho più, però mi sono rimasti i dolori al collo, alla parte posteriore del collo. Queste sono le due domande: se l'attività che sto facendo è quella giusta e come potrei migliorare i dolori al collo della cervicale. Grazie. Allora, intanto al signor Angelo dico che ha fatto la scelta giusta, perché a un certo punto della vita bisogna fare delle scelte. Allora, si può scegliere di continuare svolgere un'attività sportiva un po' aggressiva, ma poi se ne pagano le conseguenze, mentre l'abbandonare sport così aggressivi come il calcetto alla sua età ha fatto bene. Sta a casa. Quindi, però 3 volte alla settimana spinning è un bel impegno, e comunque anche qui è una buona scelta lo spinning, perché permette il movimento senza gravare con un carico eccessivo sulle proprie articolazioni. Però è chiaro che lo spinning prevede una postura, una posizione del collo che può risultare problematica proprio per la posizione, quindi per la conseguente tensione della muscolatura intorno al collo che può risultare dolorosa. Allora bisogna regolare la posizione in sella dello spinning, è semplice, bisogna alzare, provi ad alzare il manubrio, e alzando il manubrio avrà una posizione di pedalata più eretta, ed è possibile che variando anche di poco quest'angolo di incidenza lei possa avere meno tensione muscolare e meno dolore. Alzi il manubrio e vai indietro un po' il collo. Esattamente. È un po' così. Dottor Melegatti, abbiamo detto che avremmo parlato dei condroprotettori. Come ci orientiamo? Sì, ne sentiamo sempre parlare, sappiamo che alcuni dividono. Certo, sì. Non c'è un'uniformità di pensiero sull'utilizzo soprattutto dei condroprotettori utilizzati tramite infiltrazioni. Sì. Però c'è da dire una cosa. Innanzitutto che i condroprotettori possono risultare veramente importanti, perché laddove non si riesce, laddove il controllo del peso e il movimento non sono sufficienti per dare sollievo alle nostre articolazioni, possiamo arrivarci con dei farmaci. I condroprotettori in realtà non sono veri e propri farmaci, possiamo considerarli più come integratori, perché sono costituiti da sostanze naturali che compongono la nostra cartilagine e il nostro liquido sinoviale. Mi viene da pensare per esempio all'acido ialuronico. L'acido ialuronico è una componente naturale fondamentale della nostra cartilagine e del liquido sinoviale, e quando succede che il liquido sinoviale, per una serie di motivi che abbiamo elencato prima, perde di qualità e di quantità, possiamo fare questa supplementazione che si chiama viscosupplementazione e quindi riportiamo l'ambiente articolare a un livello tale per cui si riesca ad avere una maggior protezione delle nostre articolazioni. Alcuni non sono d'accordo, invece studi recenti hanno dimostrato che se esistono le indicazioni corrette possono essere molto utili. Ci sono delle controindicazioni, dei rischi? Le controindicazioni sì, ci sono naturalmente in articolazioni molto infiammate o che presentano infezioni, sono assolutamente controindicati, e i rischi possono essere naturalmente i rischi di infezione, e è chiaro che vanno fatti in ambiente totalmente asettico con una grandissima cura del mantenere questa asepsi. Enrico ci suggerisce la glucosamina per aiutare la cartilagine a ricostruirsi. La glucosamina ci piace perché la glucosamina insieme al condroitin solfato fa parte proprio di quella categoria di condroprotettori che sono molto utili perché aiutano, stimola il lavoro dei condrociti che sono quelle cellule che compongono, che costruiscono la cartilagine. Un altro è per quanto riguarda invece il collagene, si può anche assumere sotto forma di integratore? In realtà è un po' difficile che il collagene poi sia molto efficace perché è difficile poi portarlo direttamente a livello delle articolazioni. È molto meglio assumere questi integratori che sono di glucosamina e di condroitin solfato. Poi abbiamo sentito naturalmente anche il collega che parlava di antiossidanti e quello è un capitolo straordinariamente importante perché gli antiossidanti naturali assunti sotto forma di cibo sono assolutamente potentissimi. Sì. Essere e benessere. Ne abbiamo fatte di tutte e dette di tutte, abbiamo spiegato perché le nostre articolazioni arrugginiscono, abbiamo detto che comunque non è un problema per vecchi, è un problema anche dei diversamente giovani, insomma intorno ai 40-50 anni, l'alimentazione aiuta, poi ci sono dei farmaci, degli integratori, chiamiamolo così, che possono oliare le nostre articolazioni. Intanto che voi ci pensate, ricordatevi che poi metteremo il test, che valuteremo il livello di ruggine delle nostre articolazioni. Però magari ancora domani mattina noi ci svegliamo e siamo un po' indolenziti, un po' irrigiditi, arrugginiti, insomma. Allora in linea con noi abbiamo un intervento mirato per tutti voi che come me vi riconoscete. Abbiamo il piacere di avere Monica Stringa, insegnante di Pilates alla Physioclinic di Milano. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta. Allora Monica, facciamo così, noi ci alziamo, curiamo il momento magico perché il mattino ha l'oro in bocca, se siamo dolenti e non ci piace tanto. Allora possiamo, prendendo spunto dal Pilates, in tre movimenti direi, tre tappe, scrollarcelo di dosso, ci aiuti lei? Ok, allora prima di tutto direi non alzatevi subito dal letto, ma dovete rimanere sdraiati un attimo e portate le ginocchia al petto. E rimanete in questa posizione per una ventina di secondi, cercando di respirare normalmente. E poi, dopodiché, con l'aiuto delle mani, dovete aprire le ginocchia verso l'esterno e disegnare dei cerchi in senso orario e in senso antiorario. Facendo questi piccoli movimenti si può iniziare appunto a rilassare, a distendere la parte lombare della schiena, ma anche fare un lavoro di mobilità a livello delle anche. Dopodiché possiamo metterci seduti e portare le braccia verso l'alto, sì, allungandosi. E da qua possiamo poi arrivare a una posizione eretta, cercando di controllare bene l'appoggio dei piedi a terra e salire sulle punte dei piedi mantenendo l'addome contratto, quindi l'ombelico tirato indietro. E fare questi movimenti dei piedi, quindi salendo sulle punte, scendendo lentamente, buttando fuori l'aria quando si sale e ci si allunga. Dopodiché possiamo camminare un minuto sulle punte dei piedi, un minuto sui talloni e poi procedere con una bella doccia mattutina che rilassa la muscolatura e distende per iniziare una giornata in forma. Perfetto. Con questi piccoli accorgimenti, piccole mosse. Allora, in tutto dovremmo impiegarci 5 minuti? Sì, 5-10 minuti. 5-10 minuti al giorno. Sì, bastano per alleviare i dolori che si hanno a livello delle articolazioni o muscolari. Fantastico. E per sentirsi meglio. Allora, naturalmente potete risentire i consigli di Monica String andando sulla nostra pagina del programma, pagina Facebook. E intanto abbiamo parlato di articolazioni, dottor Melegatti, abbiamo detto che muoversi fa bene, anche correre fa bene, e c'è un appuntamento che voglio segnalarvi. In linea con noi abbiamo Rosanna Banfi. Ciao Rosanna. Buongiorno, buongiorno. Ho appena finito di fare gli esercizi del dottor Melegatti, sono ancora appiccicata alla parete con l'ascella, con il ginocchio. Che io li farò subito dopo, come sei uscita? Domani mattina faccio i prossimi, quelli che ha detto adesso la Monica. In questo momento. Monica. Senti, perché ti stai allenando? C'è un appuntamento, esatto, importante. Mi sto allenando per domenica, per un appuntamento importante, un appuntamento di solidarietà, che è la Race for the Cure. Ti ringrazio ogni anno per darci questo aiuto, ne parli, perché è un appuntamento molto importante. È l'evento simbolo praticamente della Komen, che lotta contro i tumori al seno già dal 2000. Pensate che ogni anno si ammalano di tumori al seno circa 47.000 donne in Italia, perciò è importantissimo questo lavoro di prevenzione, parlarne sempre. E questa race sono 3 giorni praticamente di salute e sport che si tengono a Roma, 17, 18 e 19 maggio a Circo Massimo, e il culmine è domenica mattina, quando ci sarà questa corsa, che poi è di 5 chilometri, non è una maratona lunghissima. Una corsettina, e c'è la passeggiata di 2 chilometri, in realtà faccio la passeggiata. Però lo scopo, la cosa più importante, è sensibilizzare praticamente la gente sull'importanza della prevenzione, perché con la prevenzione si salva la vita. E poi si esprime solidarietà a tutte queste donne in rosa, quelle come me che hanno avuto un tumore al seno, che in questa occasione rendono pubblica la loro condizione mettendo una maglietta rosa e correndo o stando in compagnia. Comunque non è necessario appunto correre, è una giornata domenica, speriamo che il tempo ci accompagni, da trascorrere anche con familiari, con i bambini, con i cani, con i passeggini, insomma si sta tutti insieme, c'è lo sport, c'è la solidarietà. E ci sono anche tanti consigli per le donne che stanno passando un momento così difficile, laboratori, consigli, quindi, di vari medici, visite. Quindi un appuntamento con la solidarietà per parlare di tumore al seno, per sottolineare, esatto, che la prevenzione è importante, per incontrarsi e rincontrarsi. Dottor Melegatti, abbiamo chiuso con questo appuntamento importante. Ricordiamo che l'attività sportiva è aiuta molto a fare prevenzione. Certamente. Viene suggerita anche alle donne che sono state operate di tumore nel recupero. Ringrazio l'amica Rosanna per essere grazie, stata con noi. Grazie a te. Ti abbraccio. Vi aspetto domenica tutti. Grazie. Dottor Melegatti, allora, insomma, per tutti i nostri ascoltatori che si riconoscono nelle descrizioni che abbiamo fatto nella ruggine, li invitiamo a seguire i nostri video che faremo tra poco. Grazie dottor Melegatti per grazie essere stato con noi. Carmelo Lauricella in regia, la parte tecnica. Laura Vanossi come sempre in redazione. Per oggi è tutto, domani parliamo di stonati. Forza con la voce, provate a cantare, io vi aspetto domani. Essere e benessere.